Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, sono le 11.09 con Roberto Scaltritti in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo a sentire insieme i titoli di oggi. Le 10 sorelle, parliamo delle dita della mano. Parkinson, che ne sai? Lo stile di vita che protegge il cuore. Questo è il signor pollice, grassoccio e posa piano. Questo è il signor indice, che segna da lontano. Medio si presenta di massima statura, anulare porta anelli su misura. Mignolo, guardate che buffo, che piccino, è grande come il nasino del mio bel bambino. Apriamo con una filastrocca sulle dita perché saranno loro le protagoniste della nostra puntata. Ne abbiamo 10, avremo modo di parlarne approfonditamente. Sappiamo bene che, come succede in una squadra, il lavoro di una garantisce e tutela la qualità e il risultato del lavoro di tutti. Sicuramente lo avete toccato anche voi con mano. A volte, a compromettere la funzione e il benessere di una mano, basta proprio solo un dito. Oggi in studio abbiamo un grande esperto della mano, il professor Giorgio Paiardi, che è direttore dell'Istituto di chirurgia plastica all'Università degli Studi di Milano e dell'Unità Operativa di Chirurgia della Mano al Policlinico Multimedica. Buongiorno professore. Buongiorno. Chirurgo della mano, perché la mano è un organo a tutti gli effetti e ha un chirurgo a lei dedicato. Che peraltro ha una grande tradizione nel nostro paese, perché la chirurgia della mano come specialità è nata in Italia, ce l'hanno invidiata gli americani per primi, che sono poi venuti in Europa a impararla. E adesso giustamente, perché la mano è davvero complessa. Sì. Sembra così piccola e invece ha tutto. Diciamo che per fare riferimento all'apertura, più che 10 sorelle direi 4 sorelle e 2 fratelli, perché il pollice ha sicuramente un ruolo importante, differente, è quello che distingue l'uomo dal resto del mondo animale, insieme a altre caratteristiche sicuramente, ma la presa della mano è quello che lo rende assolutamente unico. Però poi, come avremo modo di vedere, anche il quinto dito o mignolo che dir si voglia, basta avere un tagliettino o esserselo pestato appiccicando un quadro al muro che si fa sentire come, insomma. Quindi ogni dito ha la sua funzione. Lei senza ha detto più che 10 sorelle. Facciamo 8 sorelle e 2 fratelli. 8 sorelle e 2 fratelli. I fratelli sono abbastanza... No, per tutelare... Sono tosti. Abbastanza... Sono cicci e ben messi. E con le mani noi gesticoliamo, no? A proposito di gesti, noi siamo davvero bravissimi nell'arte del gesticolare e facciamo bene perché, oltre a risultare più simpatici, riusciamo anche a dare tono, colore, vivacità a quello che diciamo. È una dote innata quella di usare dei nostri gesti, ma anche quelle di saperli interpretare velocemente, esattamente come succede con le parole, a volte in modo ancora più immediato. Il segreto, come sempre, sta in alto, nella cabina di regia della nostra vita, che è il nostro cervello. E allora ho invitato subito con noi, buongiorno professor Barbanti. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Quando parlo di cervello penso subito a lei. Beh, io la ringrazio. Il professor Barbanti è primario neurologo all'Istituto Scientifico San Raffaele Pisana da Roma. Allora, professor Barbanti, è vero che noi gesticoliamo e tante volte i gesti arrivano prima ancora delle parole? I gesti rinforzano terribilmente le parole e il motivo è che dentro la nostra testa c'è una grande mano. Un quarto della superficie del cervello preposta a controllare il movimento, un quarto è rappresentata dalle mani, dalla mano, in particolare dalle dita. Non solo, la mano e le dita sono proprio vicine di casa sulla corteccia cerebrale della nostra bocca. E questo aveva un senso nel nostro sviluppo, perché bisogna mettere vicino ciò che ci porta il cibo, cioè la mano, al ricevitore del cibo, cioè la bocca. E adesso che siamo ancora più evoluti ha una grandissima importanza. La mano aiuta a far uscire dalla bocca, o meglio a far uscire da noi, il significato di quello che vogliamo dire e quindi la gestualità, che è una virtù che si apprende. Noi applaudiamo e sorridiamo quando il bambino fa ciao con la manina dopo qualche mese di vita. È un qualcosa di appreso e che purtroppo in alcune condizioni, alludo al gesto, si può anche perdere. Come mai? Ovviamente si tratta di condizioni patologiche. Magari posso così descrivere qualche aspetto un po' curioso, anche se patologico. Per esempio, la comparsa di una mano aliena, cioè il soggetto ha una mano che può muoversi normalmente ma che diventa estranea alla propria volontà. Questo è legato al fatto che la mano destra è controllata, come si sa, dal cervello di sinistra e viceversa, ma la cabina di regia è una sola e sta nel cervello di sinistra, nei destrimani. Ebbene, le condizioni in cui si disconnettono per lesioni i due emisferi o parte di essi, le mani diventano anarchiche. E ci può essere, per esempio, una mano bastian contrario, fa esattamente il contrario di quello che sta facendo la mano opposta. Oppure una mano che sembra timida, e cioè compie un gesto solo se la mano dell'altro lato lo sta compiendo, per esempio prendere un bicchiere, oppure una mano che raggiunge l'oggetto come se fosse un magnete e non lo molla più. Si parla di aprassia magnetica. Ed è abbastanza così stupefacente ricordare che il primo caso descritto nella metà del secolo scorso fu di una donna che si stava strangolando involontariamente con la propria mano aliena. Che paura! Ma senta, professor Barbanti, oltre alla mano aliena, io ho sentito parlare anche della mano a specchio. Ah sì, certamente, mano a specchio è la mano che scrive a rovescio, ribaltando anche le lettere. Di solito è la mano sinistra. Non è rarissima, è una persona ogni 6.000, è uno studio che hanno fatto gli australiani, sono andati anche a contarli. Ci sono delle condizioni fisiologiche, il bambino, specie se mancino, se non glielo insegni, può incominciare a scrivere da destra verso sinistra. Infatti io facevo così. Anche lei mancina come sì. me? Vede! Ah ecco, vede. E scrivevamo proprio al contrario, poi andando a scuola ti obbligano a prendere una direzione. L'unico caso noto nel mondo, e nel mondo scientifico, di scrittura a specchio obbligata è quello celeberrimo di Leonardo da Vinci. Anche in questo caso si pensa che le comunicazioni tra i due emisferi siano peculiari, ci possono essere delle vie che non sono solo crociate, come succede sempre nel nostro cervello, dall'alto verso il basso, ma anche dirette. Questa è una delle possibilità. Professor Barbanti, però la mano è, direi, lo strumento principale del nostro tatto. Sì. Con la mano accarezziamo, sfioriamo, abbiamo proprio una percezione anche delle cose che ci stanno accanto. La mano ha un rapporto con la memoria, è un rapporto ambivalente. Gesticolare, io per esempio adesso sono al telefono ma mi accorgo di gesticolare e uno studente che ripete la lezione cammina gesticolando. Gesticolare fissa nella mente le cose che stiamo per dire o che diremo in un futuro e quindi in un certo senso la mano aiuta a memorizzare. Viceversa però il tatto, la memoria del tatto è purtroppo estremamente breve. Ricorderemo di un nostro caro, un parente o un amore, ricorderemo facilmente la voce, l'odore, l'abbiamo detto, ovviamente l'immagine. Ma la memoria del tatto è fugace ed è un motivo probabilmente per il quale tra i cari e tra gli amanti le carezze non bastano mai. Ecco, e quindi accarezziamoci più spesso. Professor Barbanti, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. A voi, arrivederci. Allora, voi accarezzate la persona che sta vicino, perché abbiamo visto che la memoria del tatto è così dura poco. Continuate a gesticolare se lo state facendo, ma adesso allenate anche il vostro indice. Componete il nostro numero verde 800 24 00 24 e affidate le vostre mani alle mani sapienti del professor Paiardi, che è qui proprio pronto a darci tante indicazioni per mantenerle sane a lungo, ma soprattutto ci aiuterà a individuare quei segnali di malessere, di cattivo funzionamento delle nostre mani che, se presi in tempo, possono essere risolti brillantemente. Che dice, sicuramente, professore? Sicuramente, e mi fa piacere riprendere quello che diceva poco fa il collega circa il dialogo tra cervello e mano, perché la mano è espressione del cervello, ma espressione di qualcosa di più, di un contatto elettrico, espressione di una personalità, di un sentire, di un'emozione. Perché ci sono significative situazioni in cui questa mano non riesce a dialogare con il cervello, lo diceva anche lui, anche in situazioni non necessariamente patologiche, lo diventano nell'attività lavorativa. Basta pensare alla alcune patologie che riguardano il mondo dei musicisti, in cui vuoi per una situazione di emotività e di coinvolgimento del tutto particolare, vuoi per una condizione di overuse, si dice oggi, quindi di utilizzo continuativo e ripetitivo e frenetico della mano per compiere lo stesso gesto, esistono musicisti famosi nella storia e anche recenti, purtroppo, che debbono interrompere la propria carriera perché talvolta le cure non possono essere sufficienti, perché non riescono ad esprimere attraverso le mani la musica che conoscono, la musica che creano. E la mano si blocca. La mano si blocca ed è l'unico momento in cui si blocca. Possono effettuare qualsiasi gesto, possono usare un computer, possono scrivere, ma nel momento in cui approcciano lo strumento la mano va per conto proprio. È come se si rifiutasse, diventa un po' anarchica, come diceva il professor Barbanti. 800 24 0024 se volete parlarne con noi. Adesso insieme poi al professor Paiardi ispezioneremo proprio le nostre dita, guarderemo l'aspetto, cercheremo di individuare magari se hanno dei piccoli delle piccole malformazioni, parleremo naturalmente del movimento. I messaggi al 349-238-6666. Una mela al giorno. E in attesa delle vostre telefonate parliamo di Parkinson, perché sabato 28 novembre si celebra la prima giornata nazionale della malattia di Parkinson e per l'occasione 57 centri Parkinson distribuiti su tutto il territorio nazionale apriranno le porte al pubblico per informare, perché c'è sempre bisogno, c'è un bisogno crescente e continuo di informazione. Ne parliamo oggi con il professor Fabrizio Stocchi, che è direttore del Centro dei Disturbi del Movimento dell'Istituto a Carattere Scientifico San Raffaele di Roma. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professore, secondo i dati di una recente indagine, i pazienti aspettano troppo tempo ad andare dal medico. E è un'attesa questa che nasce anche dalla mancanza di informazione. Sembra strano, si parla tanto, si sente tanto parlare di Parkinson, eppure la maggior parte di noi non conosce i sintomi iniziali della malattia. Tra l'altro, professor Stocchi, noi oggi, come avrà sentito, insieme al professor Paiardi parliamo di mano e sappiamo anche, grazie alle puntate che abbiamo fatto proprio insieme a lei, che il rallentamento nei movimenti della mano, il tremore delle dita o anche l'alterazione della scrittura sono tutti sintomi che non devono essere sottovalutati. È vero, forse ne parliamo ancora poco di questa malattia, visto che il 98% dei parenti di un paziente hanno sentito parlare della malattia per la prima volta quando è stata fatta la diagnosi appunto al loro congiunto. Quindi questo vuol dire che evidentemente c'è poca conoscenza di questa patologia, e questo è uno dei motivi per cui abbiamo pensato di organizzare questa giornata, proprio per aumentare l'attenzione delle persone su questo, proprio per cercare di individuare la malattia il più presto possibile e di non trascurare quelli che potrebbero essere i primi sintomi. Soprattutto considerando che questa è una malattia che non colpisce solo gli anziani, ma colpisce una fascia giovane, uno su quattro ha un esordio al di sotto dei 50 anni, e che di conseguenza prima viene diagnosticata e meglio si può poi curare. Perché adesso la terapia per il Parkinson è molto cambiata rispetto a qualche anno fa, professor Stocchi? Sì. Questo sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo pensato a questa giornata è stato proprio questo studio pubblicato recentissimamente sul New England Journal of Medicine, e questo studio riporta risultati appunto di un trial clinico molto importante che dimostra che una molecola somministrata all'inizio di malattia può rallentare il decorso, quindi può diminuire la gravità della malattia man mano che passa il tempo, e questo direi è un risultato estremamente importante, perché è la prima volta che si dimostra su una malattia neurodegenerativa. Ecco, questo vuol dire dare qualità di vita al paziente. Sicuramente migliorare la qualità di vita, e per far questo, come ricordava lei all'inizio, però dobbiamo arrivare a fare una diagnosi precoce. Lei ricordava la mano, sicuramente la mano è un organo che viene colpito all'inizio della malattia, la micrografia, cioè il cambiamento della scrittura, il fatto di non riuscire a usare più bene gli utensili, di avere difficoltà con i bottoni, di prendere con le monete spicce, eccetera, eccetera, questo sono tutti sintomi che dovrebbero far suonare un campanello d'allarme. È chiaro che poi se compare il tremore il paziente arriva prima dal medico, ma ricordiamo che tantissimi pazienti parkinsoniani non tremano e quindi di conseguenza non possiamo prendere il tremore come indicatore. Allora, quindi ricordiamo la prima giornata nazionale il 28 novembre. Per avere maggiori informazioni sui centri che aderiscono alla giornata potete andare sul sito giornataparkinson.it. Professor Stocchi, grazie, buona giornata. Grazie a lei, buona giornata a lei e a tutti gli ascoltatori. Pronto soccorso. I nostri ascoltatori, professor Paiardi, si sono già scatenati al 349-238-6666, hanno fatto andare il loro ditino. Lei come scrive i messaggi? Solo con l'indice oppure più giovane usa? No, perché no. I ragazzi le usano, vedo, anche con il pollice. Ad esempio Laura Vanossi va di pollice. Lei? Ma dipende dalle abitudini delle tastiere, poi se si usa la scrittura intuitiva o no. Adesso questi telefonini che hanno le tastiere estese portano a usare più dita. Un po' come al computer, su una tastiera ristretta farci stare. Beh, tante dita, noi siamo dita. Dell'altra se, generazione, se poi andiamo sono di indice. Grandi come le mie diventa difficile. Quindi allora professore, io vorrei darle le mie mani perché vorrei iniziare no, adesso, perché sembra quasi una proposta di matrimonio, al contrario ci si può pensare. Ecco, vorrei che lei ci aiutasse a guardare le nostre mani per segnalarci qualche dettaglio da non trascurare. Che cosa dobbiamo guardare delle nostre mani? Ma la mano è un organo che noi abbiamo sotto gli occhi tutto il giorno e quindi è inevitabile che quando c'è un fastidio o quando morfologicamente cambia qualcosa lo constatiamo. E qui vediamo nei pazienti che ci sono due tendenze uguali ed opposte. Da un lato quello di allarmarsi perché compare un rigonfiamento, una protuberanza, nel timore, nel passaparola di malattie anche importanti, anche se infrequenti. O al contrario, un atteggiamento un po' più supino, dovuto al fatto che spesso anche i medici, come si suol dire, danno di lungo, e soprattutto alle donne, quando non hanno più 20 anni, prima la menopausa, poi l'altro si dice, beh, cosa vuol farci? Inevitabile. Allora, presa da questo sconforto che tanto il loro destino è segnato, arrivano in condizioni effettivamente pietose. Allora, diciamo che le articolazioni di tutto il nostro corpo sono l'elemento che attira di più la nostra attenzione. Certo. Quindi la nocca rigonfiata, soprattutto il dito vicino all'unghia, che ha un aspetto anche a volte morfologicamente non bello, oltre a essere dolente, sicuramente incuriosisce dapprima e preoccupa poi il paziente, la paziente soprattutto, che se ne preoccupa e se ne allarma. Io direi che anche per non gettare nel panico la gente, bravo, come diceva piace. Giustamente il collega, valutare e non sopravvalutare i primi disturbi. Quindi quando la mano globalmente sembra che funzioni non bene o anche solo un po' peggio del solito, e questo disagio non è occasionale perché abbiamo sistemato la cantina, ma è legato ad un protrarsi dello stesso disturbo, sia che si lavori sia che non si lavori, una valutazione di massima da parte di quello che dovrebbe essere il nostro faro della salute, che è il medico di famiglia, il medico curante, è sicuramente opportuno. Quando poi ce ne sono gli estremi, perché il fenomeno da un mero disagio diventa dolore, limita la funzione, abbiamo oggi degli strumenti anche molto semplici di immagini, di valutazione, che ci danno una risposta chiara. Andiamo a Bergamo, ci aspetta Paolo. Buongiorno Paolo. Salve, mi sentite? Sì. Noi la sentiamo. Qua la mano, Paolo. No, la mano destra, è più una curiosità la mia. Io lavoro molto col computer e quindi utilizzo molto il mouse. E la sera le dita e tutto il braccio mi dà spesso fastidio, mi fa male. Poi sabato, domenica, che invece non utilizzo, mi passa tutto. Volevo chiedere al professore, ma non è che è un problema di mouse, e quindi avere un mouse più piccolo, più grande, oppure spostarlo dalla mano sinistra può far bene oppure cosa dovrei fare. Grazie Paolo. Professor Paiardi, se la risposta è breve la diamo subito perché abbiamo i mercati che ci soffiano sul collo. Cosa diciamo? Allora, diciamo che il mouse in quanto tale non c'entra. Noi siamo portati a cercare sempre un colpevole. Certo. Diciamo che in un paziente che può avere un disagio e un fastidio, questo si esprime maggiormente nell'utilizzo più intenso che facciamo. Quindi se è un timbro perché lavoriamo alle poste è quello, se è un mouse perché è il mouse. Spesso il disagio è legato soltanto alla posizione con cui teniamo la mano e il polso, corretto al quale possiamo stare significativamente meglio. Quindi appoggiandolo bene. Appoggiandolo bene, verificando l'altezza della sedia, usando eventualmente quei cuscinetti banali in gelatina che vengono, si vendono anche nei grandi supermarket, in modo da dare una posizione globalmente migliore. Pollice, indice, medio, anulare e mignolo sono loro i protagonisti della nostra puntata. Chiamateci all'800 24 00 24, proprio come ha fatto Gianni da Roma. Gianni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno Nicoletta, mi sente bene? Benissimo. Perfetto, volevo chiedere al professore, io sono un musicista a livello amatoriale, chiaramente sono un autodidatta. Suono da tanti anni il pianoforte, però ogni tanto mi devo fermare perché ho delle tendiniti alle braccia, a volte al braccio destro, a volte al braccio sinistro, a volte anche tutti e due. Volevo chiedere al professore che cosa devo fare, mi devo fermare, ho provato a farlo anche per 2-3 mesi, però poi appena riprendo... Di nuovo torna. Sì, mi hanno sempre detto che il pianoforte è un'ottima ginnastica per le mani, per le dita, eccetera, eccetera. Però c'è questo inconveniente, non so da che cosa dipende, potete aiutarmi? Grazie Gianni. Professor Paiardi. L'accenno che abbiamo fatto prima alla mano del musicista riguardava una situazione del tutto particolare che è tipico del mondo dei musicisti. Però i musicisti sono esseri umani che hanno quindi, nella maggior parte dei casi, per fortuna, e quindi è più lieve, delle patologie che sono comuni a tutti, che derivano dalla postura, come abbiamo sentito prima, anche per il mouse, per il computer, e dalla preparazione atletica che hanno le nostre braccia per sopportare poi un carico. Quindi diciamo che in linea di massima quello che è importante è l'impostazione. Esistono dei corsi che vengono fatti al conservatorio e che tutti i professionisti hanno seguito ripetutamente, di posizione e di tecnica di esecuzione del gesto, secondo le varie metodiche di apprendimento, per carità, del singolo strumento, per far sì di ottenere un buon coordinamento e il miglior effetto ginnico, se così possiamo definirlo, possibile per esercitare, per suonare lo strumento, però rispettando il carico muscolare, il carico tendineo. Per chi, quindi, è un autodidatta, però esatto. Deve imparare un po' sul campo. È una patologia che hanno anche i professionisti. Il problema non è smettere, perché smettere, il musicista è un atleta, e un atleta non lo fai smettere neanche quando si rompe sul serio, ma deve essere messo nelle condizioni di compiere il gesto in modo adeguato. Quindi, nella maggior parte dei casi, un minimo di preparazione atletica di fondo, come fa lo sciatore con la prescistica, certo, quindi un'attività di palestra, e poi sentire o qualche amico, collega più, diciamo, avanzato di livello, o addirittura un maestro di tecnica di pianoforte per correggere la postura. Professor Paiardi, prima abbiamo guardato le nostre mani, adesso proviamo a sentire che cosa ci dicono le nostre mani. A volte si lamentano, il dolore può insorgere a riposo o magari dopo il movimento, essere più forte al mattino o arrivare alla sera, è lì che diamo la colpa al mouse e a tutti gli strumenti che usiamo nell'arco della giornata. Ma voglio leggerle un messaggio che ci scrive Anna. Soffro di artrite della mano con a volte dolori lancinanti. Esiste una cura reale per evitare il peggioramento? Qua si aprirebbe un capitolo, ci vorrebbe una puntata intera, ma io sono certa che lei sinteticamente riesce a dare un'indicazione. Diciamo che possiamo distinguere tra disturbi che sono legati al movimento e disturbi che sono indipendenti da quello. Quindi abbiamo una situazione dolorosa che sono contemporanee al movimento, quindi ho male mentre compio il gesto, o ne sono le conseguenze, noi riteniamo perché ho usato troppo la mano. Ci sono altre situazioni invece in cui il dolore è spontaneo, viene o durante la notte o durante il giorno mentre guardo la televisione, e quindi non è legato al gesto. Di questa seconda categoria, a questa seconda categoria appartengono abitualmente i dolori di cui abbiamo parlato tante volte, neurologici, che sia quindi il canale carpale, lunare al gomito, eccetera, nel senso che non sono direttamente correlate al movimento. Della prima categoria, di cui ci chiede probabilmente la signora, sono legati invece quelle patologie che hanno a che fare o con le articolazioni o con i tendini, come abbiamo appena sentito dal musicista. Ora, già identificare e parlare di artrite è molto particolare, perché l'artrite, e l'artrite reumatoide in particolare, è importante saperlo, è una patologia molto grave, molto invalidante, che comporta un coinvolgimento di tutto l'organismo, per il quale noi abbiamo assoluta necessità di avere un buon reumatologo alle spalle e di che pertinenza, curi. Certo. Nella maggior parte dei casi, e naturalmente noi si interveniamo sotto il profilo riabilitativo e conservativo e, quando necessario, chirurgico, per dare la possibilità al paziente di diminuire sensibilmente il dolore e di migliorare al più possibile la funzione. Noi a volte definiamo come artrite o come artrosi il dolore in quanto è una specie, è un po' come il cestino che noi abbiamo sul desktop del nostro computer, quando non sappiamo cos'è, dentro artrosi. Anche i nostri i colleghi medici, per carità, lo usano. Posso dire alla signora che difficilmente ci sono patologie per le quali non sia possibile dare un sollievo concreto. Nella maggior parte dei casi, per fortuna, e anche di questo abbiamo parlato in altre occasioni, con una riabilitazione specialistica, ci sono nel nostro paese dei terapisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali di mano specialistici, che quindi, attraverso l'utilizzo di tutori di terapia occupazionale, di postura, riescono a mettere le articolazioni in una buona condizione per avere meno male. Bravo, di funzionare quando bene. Questo non sia possibile, ci può essere l'opportunità di un gesto chirurgico che deve essere molto mirato, molto delicato, deve riguardare la singola articolazione o singolo tendine, senza evidentemente creare disturbi ai tessuti che, poverini, stavano bene già prima. E allora occupiamoci un po' del benessere delle nostre mani. Adesso le abbiamo raccolto un po' di lamentele, ma in linea con noi abbiamo il professor Fulvio Palombini. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Il professor Fulvio Palombini è reumatologo e docente in fisioterapia all'Università La Sapienza di Roma, ospedale Sant'Andrea, ed è qui perché con le mani noi abbiamo detto che gesticoliamo, accarezziamo delle mani, noi ci lamentiamo spesso, arrivano anche messaggi dei nostri ascoltatori: le mie mani non mi piacciono per nulla, sono tozze, sono troppo lunghe, ho le dita che sembrano degli artigli. Ma noi le mani le possiamo usare, e lei ce lo insegna con lo shiatsu, per regalare benessere in generale a tutto il corpo. Ma noi oggi, che le mani sono le nostre protagoniste, vogliamo con una mano autosciazzare l'altra. Si può fare, professore? Come non si può fare, anzi si dovrebbe fare. Tutti questi pazienti, questi malati che soffrono di forme degenerative, artrosi, che dovrebbero sciazzarsi tutti i giorni. Allora andiamo di shiatsu. Una tecnica molto semplice, ma ripeto molto efficace, che io dico sempre: provare per credere, per vedere l'efficacia di questo piccolo trattamento. Posso iniziare, dare qualche indicazione? Certo, prof. Allora, seduti, possibilmente sempre davanti a uno specchio, perché è sempre meglio guardarsi nel gesto che si fa. Con la mano destra si prendono le dita, si inizia con il mignolo, la parte più prossimale, la falange più prossimale, e si preme con forza proprio tutta la falange, contando fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5, poi si lascia delicatamente. Si salta l'articolazione, non si preme sull'articolazione, e si va sulla seconda falange, e si preme con intensità, con forza, sempre contando fino a quando c'è quel dolorino piacevole. Brava, come dice lei, ormai è proprio il dolorino piacevole, ormai siamo esperti di autosciazzo. E si fa su tutte le dita, ripeto, possibilmente saltando l'articolazione, quindi si preme con intensità la falange. Poi, quando si sono fatte tutte le cinque dita, Le dita si tirano dolcemente, proprio delle piccole trazioni delle dita, sempre contando fino a 5, 1, 2, 3, 4, 5, si lascia con delicatezza. È un esercizio di stretching per le... È un piccolo esercizio di stretching, nello shiatsu si applica molto la pressione e lo stretching, c'è un famoso libro di Toru Namikoshi che si chiama proprio Shiatsu and Stretching, quindi sono le due tecniche che più si usano poi in riabilitazione anche in fisioterapia. Allora, pressione e allungamento. Professor Palombini, andiamo a sentire i mercati, la viabilità insieme e poi se lei ha un altro esercizio lo suggeriamo. Resta con noi? Senz'altro. Professor Palombini, io ho continuato, stretching, anche il professor Paiardi era tentato di provare l'autoshiatsu. Tutti a fare autoshiatsu. Regaliamo ai nostri ascoltatori un altro brevissimo esercizio di autoshiatsu. Sì, uno proprio per concludere la seduta di autoshiatsu che abbiamo iniziato prima quindi pressioni delle dita, poi trazioni delle dita e poi si conclude facendo delle pressioni molto energiche, sì. Molto energiche, proprio al centro del palmo della mano. Si preme con grande intensità, con forza. Qui questo famoso dolorino piacere, per ottenerlo c'è bisogno di un po' di intensità, quindi un po' di forza. Sì. Ognuno di noi ci conosciamo quando facciamo i trattamenti su di noi, quindi premiamo con intensità. Questa volta si rimane un po' più a lungo di 5 secondi, quasi 10 secondi, e poi si rilascia dolcemente. Voilà, in tre mosse, professor Palombini, le nostre mani sono nuove. Nuove no. Sicuramente un aiuto lo avremo sicuramente. Grazie professor Palombini, buona giornata, buon shiatsu a tutti. Andiamo a Bruno che ci chiama dalla provincia di Vicenza. Buongiorno Bruno. Buongiorno Nicoletta. Ha fatto gli esercizi Bruno? No, mannaggia. Tanto, mi sono fermato adesso, non potevo farli. Certo, ha fatto bene, allora. Ti racconti, dico Bruno. Il mio problema. Sì. A me capita di notte che mi muoiono praticamente le dita, non le sento più. Principalmente il medio, l'anulare. Sì. L'indice, il medio e l'anulare, di entrambi le mani. Guardi che mani. Bruno, lei dovrebbe vedere la faccia del professor Paiardi, che è già tutto goduto, la sa già la diagnosi, perché sono sintomi classici di una patologia, posso chiamarla patologia? Sì, sì. Di un disturbo. La guest star del nostro mestiere, insomma. Esatto. Perché è quella denominata la sindrome del canale carpale, è una compressione del nervo mediano a livello del polso che non ha delle vere cause. Potremmo dire che è un evento quasi fisiologico, come il capello che diventa grigio, perché quando io cominciai il mio mestiere un po' di anni fa da piccolo con mio maestro, il professor Morelli, lui diceva che era un paese che avevamo una malattia che avevamo noi nordici, perché da noi c'era l'umidità e lo smog. Sì. In realtà poi quando mi ha scoperto che ce l'avevano anche i pazienti napoletani o siciliani, questo credo è crollato. Sì. È una patologia che riveste il 40% della popolazione mondiale e quindi in quanto tale va trattata. Va trattata sempre chirurgicamente o possiamo aspettare? No, allora esiste la possibilità oggi con grande affidabilità di poterla stadiare, cioè si fa un'elettromiografia, se esiste il disturbo e l'elettromiografia è ancora negativa, sì. Allora sempre affidandosi ai terapisti, fisioterapisti e terapisti occupazionali specialisti di cui parlavamo prima, quindi non pezzi di plastica comprati in negozio, ma tutori fatti su misura per il paziente. Un po' come il plantare per il piede. Esatto. Si può avere un significativo giovamento, a volte duraturo per tutta la vita. Se invece l'esame è positivo, è inutile lasciare che il nervo si infiammi di più, che sappiamo che a volte poi ci fa pagare un prezzo significativo, e c'è la possibilità dell'intervento chirurgico, che ovviamente è sempre una situazione di disagio per il paziente, però da quando ormai da 20 anni c'è l'endoscopia si può effettuare con una incisione ridotta. Oggi addirittura si chiude la piccola buco cutaneo con la colla, quindi dopo 2 giorni il paziente però può lavare le mani. Farla da solo. No, certo, no. Però di fatto il disagio per il paziente è contenuto. Professore, abbiamo accennato al movimento. A volte le nostre dita, oltre a sembrare un po' arrugginite, abbiamo parlato anche della difficoltà magari a fare delle mestieri quotidiani, in alcuni casi le nostre dita si bloccano, poi ritornano. È il famoso dito a scatto. Sì, allora mettiamo insieme le telefonate di due persone che abbiamo sentito oggi. Allora, le dita si possono bloccare perché il nervo non le fa più muovere, ed è il signore che abbiamo sentito, se non sbaglio, dal Veneto poco fa. Oppure possiamo avere, come in qualche modo ci diceva invece il musicista, il tendine che si infiamma e ha difficoltà a scorrere. Nella mano i meccanismi, i leveraggi sono così complessi che esistono delle guide del tendine che permettono al tendine di passare dal polso al palmo della mano, dal palmo della mano al dito e dal dito all'unghia e così via. Se c'è un'infiammazione ha difficoltà a scorrere. Sicuramente un buon trattamento riabilitativo permette nella stragrande maggioranza dei casi di disinfiammare il tendine, che quindi, ritornando alle sue dimensioni abituali, ricomincia a scorrere. L'intervento chirurgico, anche questo in endoscopia, rigorosamente in endoscopia, è limitato soltanto ad alcuni casi. Mi permetta sotto questo profilo di aggiungere un elemento. Come ci potrebbe dire il collega che abbiamo sentito sullo shiatsu, noi pensiamo, immaginiamo, anche noi quando visitiamo, che il paziente si senta coinvolto, che segua le indicazioni, soprattutto quando ha la prospettiva, e io parlo da chirurgo, eccellente di non essere operato, o in caso di intervento di poter avere un giovamento rapido ed efficiente. E sapesse invece lei quanto è difficile convincere il paziente a curarsi e a seguire le indicazioni del terapista, perché loro spesso si limitano a quella mezz'ora passata col terapista sprecando le altre 23 ore e mezza della giornata. Avevamo ancora in linea Raffaele da Pisa. Raffaele, buongiorno. Ma io ho 30 secondi per lei. Ci salutiamo? Velocissimo. Una curiosità e una domanda sul dito a scatto. La curiosità era se scrocchiare le dita fa male. La domanda invece è per mia madre. Il dito a scatto, in parte ha già risposto il professore. A questo punto mi viene solamente da chiedere: terapie farmacologiche locali fanno bene? Se sì, quali? O anche bendaggi e qualche supporto per il pollice? Le dita non sono fatte per scrocchiare, non consumiamoci inutilmente anzitempo. E invece, per quanto riguarda la madre, farmaci, se si può, no, perché fanno male e si può ovviare in altro modo. Riabilitazione sicuramente sì. Professor Paiardi, è sempre un piacere averla qua in studio con noi. Alla prossima, grazie a voi che ci avete seguito. Vi aspetto domani dopo il GR delle 11. Buona giornata, abbiate cura delle vostre ditine. Essere e benessere.